sempre quella. Tutti i giorni i nostri amici mi domandano di te, ma dov'è, come sta, cosa fa? Vedrai che tornerà, tornerà.